Bentornati a Dedicato, mercoledì 12 febbraio, siamo in piena aria sanremese, quindi la seconda puntata di Dedicato proprio sul festival, ma come abbiamo già anticipato l'altra volta nella nostra prima puntata della settimana scorsa, la nostra classifica sanremese non va assolutamente di pari passo con quello che succede al festival, ma anzi noi ci stiamo occupando proprio di quelli che sono stati esclusi dal festival negli ultimi anni, molti anni. Siamo partiti dal 1961 con Mina e poi abbiamo fatto un po' un giro tra gli anni passati di Sanremo, guardando appunto che tra gli esclusi o gli ultimi classificati c'erano anche Nada, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Zucchero. E tra gli esclusi c'era il nostro mitico Freak Anthony, con Però Quasi. La storia di questo brano l'avevamo già raccontata in una delle nostre trasmissioni della prima edizione dell'anno scorso, ma è un po' semplice, diciamo. Era stato escluso, quindi gli hanno detto: ma sai, non sei un personaggio di punta, ci vorrebbe qualcuno che ti affiancasse. Ha trovato qualcuno che lo affiancasse, che era Luca Carboni, ma non andava bene lo stesso, quindi dopo varie vicissitudini alla fine il nostro Freak Anthony ha detto col direttore artistico dell'epoca, che era Gianni Morandi: insomma Gianni, ma chi devo portare a sto festival di Sanremo con me, perché mi prendiate? Porto Dio? E ha scritto questo fantastico brano. Thank you. Dio. Va bene se porto Dio. Rick Anthony con Porto Dio. Abbiamo raccontato prima che appunto, ma qui c'è qualcuno? Mascotte, salve. Dicevo, eh no, prima c'eri, non c'eri prima perché non t'ho vista, ma prima dove eri? C'eri, ma hai sentito che Gianni Morandi aveva scartato Rick Anthony dal festival e lui quindi ha scritto questa canzone? Sì. Dicendo, sono ma Gianni sempre stata nascosta sul muro dello studio. Ah, ok. Beh, quindi sai sono tutto, insomma. Sono diventata un camaleonte. Perché gli aveva detto Gianni, io non so chi portare al festival come personaggio insieme a me e quindi va bene, ok. Io c'ero. Molto bene. Mascotte. Allora, questo festival di Sanremo ci piace o non ci piace? Ci piace, no? Non ci piace, ci piace, non ci piace. Ok, va bene. Lo staff di dedicato ancora non si è espresso. Io avrei dei pareri, però. Dilli i tuoi pareri, noi siamo qua apposta. Secondo per... me ci dovrebbero essere dei giudici. Ci sono. Non è vero. E poi magari secondo me ci dovrebbe essere l'orchestra. C'è. Secondo poi... me ci dovrebbe essere un presentatore simpatico. Vabbè, quest'anno abbiamo un presentatore che insomma non è proprio antipaticissimo, ma non lo so, dai, non so cosa dire. Su questa cosa lascio... È Caparezza il presentatore? No, ma mascotte, ma tu stai guardando il Festival di Sanremo? No, sto guardando i video di Caparezza. Ah, ok, perfetto, benissimo, mi fa piacere. Noi in studio siamo sempre preparatissimi sugli argomenti di queste puntate tematiche. Questa è la puntata tematica su Sanremo, non su Caparezza. Cioè, comunque va bene. Viva Vabbè, Caparezza! Comunque. Siamo fuori dal tunnel del divertimento. Bene, detto ciò, detto allora. Tutto ciò bellissimo, fighissimo. Siamo stasera alla seconda serata del Festival di Sanremo. Ma è già iniziato? Ma Scott, ma scusi, ma lei non mi sta sul pezzo. Ma è già iniziato? Ma certo che è già iniziato. Oh, ma insomma. Ci che voglio pazienza. Andare a Sanremo? No, a cantare. A cantare a Sanremo? Immaginavo che dicesse quello, Mascot. Bene. Secondo me con questa vado fuori dal tunnel poi. Sì, vai fuori dal tunnel, secondo me fai la fine di Vasco Rossi e Zucchero, che se arrivi penultima ti va fatta bene. Comunque andiamo avanti. Ehi. Con la nostra storia sanremese, perché sanremase. No, ascolti Mascot per cortesia. Sanrufase. Guardi, adesso le do un paio di indicazioni. Allora, eravamo arrivati giusto a Zucchero che è arrivato penultimo nel 1985. Ora passiamo al 1987 con Quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia. Ecco, con il brano scritto da lei e da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone si aggiudicò il premio della critica, ma nella classifica finale arrivò soltanto all'ottava posizione. Cioè, voglio dire, alla 37esima edizione del Festival di Sanremo c'è stato questo brano che, voglio dire, Quello che le donne non dicono. Io non dico altro, no? Io poi sono una donna, no? Il gioco di parole, vabbè, niente. Ma almeno tu nell'universo. No. Cosa c'entra? Quello è due anni dopo. Mascotte, stia buona. Ma quell'anno, bella. Quell'anno però la Festival di Sanremo venne vinto da Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi, Gianni Morandi con Si può dare di più. Allora io mi ricordo benissimo quell'anno perché guardai tutto il festival con la mia mamma ed eravamo attaccate allo schermo perché insomma Si può dare di più era un pezzo di svolta in quel momento, non so come dire, no? Ovviamente molto commerciale come tutto quello che viene proposto al festival, però per noi italiani vedere tre artisti importanti come Ruggeri, Tozzi, Morandi in un'esecuzione di un brano creato assieme, insomma era una cosa molto bella. Poi si io può dare di più. Io sono rimanendo fatta. Questa cosa non la sapevo. Certo, nell'87 Mascotte lei non c'era. Sapevo solo Almeno tu nell'universo, che è due anni dopo comunque, con Mia Martini nell'89, e non c'entra assolutamente nulla con l'edizione dell'87. E comunque, quello che le donne non dicono, la mia mamma e io speravamo che vincesse. Io me lo ricordo proprio nel cuore che ho sentito quel brano la prima volta e ho detto ma è meraviglioso, e invece no, si è beccato l'ottava posizione. E adesso, per fare felice la mascotte, passiamo a 1989, Almeno tu nell'universo. Sì! Ecco, che però non ha vinto assolutamente. Questo lo so. Il brano portato al successo da Mia Martini, giusto? Lo voglio dire io. Cosa vuoi dire? Sentiamo, mascotte. Allora, il festival vinse il primo premio. No. E il premio della critica. Non vinse il primo premio, vinse il premio della critica e conquistò il pubblico, ma si piazzò al nono posto della classifica ufficiale. Al nono posto? Al nonno, sì, certo. Ecco, prima di essere passato al vaglio della critica e pubblico, la canzone, affidata alla potente voce di Mia Martini, era stata tenuta nel cassetto fin dal 1972 da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio. Ecco, perché pare che la ritenessero troppo innovativa per l'epoca, quindi nel 72 secondo loro non andava bene questa canzone. Poi invece è arrivata nell'89 sul palco dell'Ariston ma si fa l'Ariston ed è arrivata, come abbiamo detto, nona. Mascotte, mi sta distraendo, questa è una puntata seria, stiamo dando dei dati, delle informazioni. Ma se io non so che cosa stiamo dicendo, scusate, parliamo di caparezza. Dandy, non mi comprendi, senti, tu non ti offendi se ti dico che sei trendy. Prendimi, per esempio, non mi stempio per un tempio del divertimento. Essendo amico di Baldan Bembo, sono un silenzio che può diventare musica se rimo sghembo su qualsiasi tempo che sfrequenzo. Sai, la gente strana prima si odia e poi cambia idea improvvisamente, prima la verità, poi mentirà lui senza serietà. Thank you. dal 1989 con Mia Martini passiamo al 1994, perché anche Giuni Russo ha provato in più occasioni ad andare a Sanremo, e dopo esserci stata nel 68 e nell'89 che con un brano scartato dalla commissione artistica, nel 94 ritenta quella che diventerà una delle sue canzoni più rappresentative, La sua figura. Niente da fare. Nel 97 ritenta con la splendida Morirò d'amore e la commissione la boccia. Il brano viene rivalutato solo nel 2003, quando finalmente riesce a gareggiare. Sempre nel 94 succede che Fabrizio De André, autore del pezzo Cose che dimentico, con tema AIDS, quindi insomma un brano importante anche, che avrebbe dovuto cantare suo figlio Cristiano, viene ritenuto troppo politico e quindi niente. La versione in duetto di questo brano è stata pubblicata nell'antologia In direzione ostinata e contraria, e quindi insomma padre e figlio lo portano poi al successo. Fabrizio De André si è sempre tenuto alla larga. Aspetta, da Sanremo. Fabrizio De André si è sempre tenuto non alla larga. Cristiano De André. Cristiano è suo figlio. Fabrizio De André era il padre, capostipite di Mi una storia importante. E chi? Allora, De André partecipò a Sanremo come paroliere per i New Trolls con Faccia di Cane. Cos'è nel 1985. Paroliere? Il paroliere è quello che scrive le parole delle canzoni. Però anche i New Trolls nell'85 si piazzarono nella parte bassa della classifica, quindi insomma De André, diciamo che con Sanremo non ha avuto ottimi riscontri, ecco, mettiamola così. Ma voglio dire, credo che sia anche normale per un Fabrizio De André, perché Sanremo De André non la vedo molto come commistione interessante, ecco. Ma sai qual è la cosa buffa? Che tanti dei brani più importanti a livello anche commerciale, proprio, cioè di vendita economica, a Sanremo non si sono piazzati nei primi tre posti, ecco. Al di là della valenza musicale dei brani, che quelli proprio arrivavano sempre ultimi, quelli migliori, invece, o addirittura scartati, come il nostro Freak Anthony. Non è giusto, però c'è una commissione artistica che valuta i brani e quindi adesso ci insomma scrivo una canzone che si chiama Non è giusto. Non è giusto. E vado a Sanremo con questo. Non è giusto. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi e non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' per la voglia di piacere a chi c'è già potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai. Bene, abbiamo ascoltato tutte le nostre due donne meravigliose, Mia Martini e Fiorella Mannoia. Ma Scott, dove sta andando? Scusi, perché deve sapere che Max Gazzè ha gareggiato in svariate edizioni, ma nel 97 presenta a Sanremo Giovani la bellissima e ironica Cara Valentina, che viene scartata dalla giuria. Il pezzo poi diventerà uno dei must del cantautore. Quell'anno Amici come prima di Paola e Chiara vinse nella categoria giovani, quindi ok, che dire, è andata così. Mentre Valeria Rossi nel 2001 non viene proprio inclusa nelle nuove proposte di Sanremo, che era condotto da Raffaella Carrà all'epoca. L'anno in cui la categoria vincono i Gasosa con Stai con me, e in gara c'è Francesco Renga, insomma varie robe, ma queste tre parole di Valeria Rossi vince poi il Festival Bar come rivelazione dell'anno, entra nella top 5 spagnola, cioè una roba pazzesca, dammi tre parole, sole, cuore, amore, quella lì, che è stato un tormentone allucinante, niente. Sole, cuore, cuore. Sì, vabbè, ma Scott non la sa la canzone, non faccia così per cortesia. Io sono giovine! Nel 2002 arriviamo al momento di Salirò. Ma non c'era ancora. No, non c'era ancora Mascotte, no. Nel 2002 direi proprio di no. Salirò di Daniele Silvestri, oh, canzone bellissima, e diventò un vero e proprio tormentone anche questa, però è arrivata al 14° posto, quindi voglio dire, anche Daniele Silvestri non è riuscito a piazzarsi sicuramente fra i primi tre. Questo è di Daniele Silvestri, case, in quell'anno? Case. Ma cosa c'entra? È di Daniele Silvestri. Ma non è Daniele Silvestri, Clementino quella, non c'entra niente. Si chiamano simili. Ma no, allora, invece dicevo, l'anno in cui Daniele Silvestri arrivò 14°, quindi il 2002, vinsero i Mattia Bazar con Messaggio d'amore e basta, niente, quindi ascoltiamo Daniele Silvestri. Preferirei stare seduto sopra il ciglio di un vulcano, mi brucerei ma salutandoti dall'alto con la mano, e invece sto sdraiato senza fiato, scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato, il resto qui disteso sul selciato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano, congelerei ma col sorriso che si allarga piano piano, e invece sto sdraiato senza fiato, sfatto come il letto su cui prima mai lasciato, il resto distrutto, disperato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. E salirò fra le rose di questo giardino, e salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. Salirò tra le rose di questo giardino, e salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. Bene, dopo il 14° posto di Daniele Silvestri con Salirò nel 2002, passiamo al 2007, dove vinse Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa, ma non c'è stato spazio per quello che è diventato uno dei pezzi più noti di Rene Grandi, scritto da Francesco Bianconi. Baudo non l'ha ammessa a Sanremo. A distanza di un anno, però, lo stesso Baudo ammetterà l'errore. Nel 2014 Franco Battiato aveva scritto un brano per Alice, e non è stato assolutamente neanche considerato. Il brano, di cui non si conosce il titolo, è stato scartato dalla commissione artistica. Qualche giornalista ha chiesto a Battiato, insomma, se la canzone fosse troppo bella per Sanremo, e lui rispose divertito: sì, decisamente. Quell'anno vinse Arisa con Controvento. Vabbè, detto ciò, arriviamo al 2025, quindi gli scartati di quest'anno sono stati da Amedeo Minghi a Paola e Chiara, e poi c'è stato Sfera e Basta, e va bene, non so che dire, Patti Pravo, Elettra Lamborghini, Anna Tatangelo, Paolo Vallesi, Mietta, i Nomadi e i Jalis. Hanno scartato i Jalis per la 28ª volta. Il duo musicale che ha vinto Sanremo nel 97 con Fiumi di parole ha reagito con ironia a questa loro ennesima esclusione, perché veramente 28 volte è in assoluto, insomma, il must di Sanremo negli scarti. Sono stati molto delusi di questa cosa, ma hanno dimostrato il loro spirito positivo e hanno detto che brindano a un 28esimo, no, un record incredibile, insomma, meglio che vincere Sanremo, direi. Quindi ci riproveranno assolutamente perché sostengono che Sanremo non è l'unico obiettivo della loro carriera, ma assolutamente vogliono un'altra opportunità per salire sul palco. È stato scartato anche Albano Carrisi, Irene Grandi, Alex Britti, Raf, Madam. Invece quelli che abbiamo sul palco li sappiamo, sono i 30 artisti che in questi giorni stanno provando a vincere il Festival di Sanremo. Ma noi ovviamente ora ascolteremo i Jalisse. Bene, prima però ci salutiamo perché siamo arrivati lunghissimi alla fine di questa puntata. Ciao mascotte! Ciao! Ok, la Ci prossima vediamo! settimana, dove ci vediamo? Ci sentiamo? Sì, vabbè, avete capito? La prossima settimana alle Sì, 13. ok, la solita cosa, 13, Radio Città Fugico, radio... Dedicato! Dedicato, ma ci Ciao a tutti! Ciao mascotte! Ciao! La mia testa chiude l'audio, la storia la so. Sei fatto così, dovrei limitare.